Olimpia di Dario Ricci. Dalla bandierina alla Juventus, palla che passa, incredibile palla per rete, Cristiano Ronaldo, la prima volta in Italia di CR7, tutto lo stadium in piedi. Scatto di Ronaldo dall'altra parte, Emre Can cerca Ronaldo che può far doppietta, Ronaldo ha fatto doppietta, 2-0 per la Juve, 2 in un colpo solo per Cristiano Ronaldo. Distanza, quel tocco di Alessandro, pallone in area per Pjanic che prova il tiro, c'è una deviazione, Ronaldo, rete, Ronaldo, la Juve in vantaggio. Pallone ributtato in area di rigore dove Ronaldo era in fuorigioco, non Mandzukic che prova a giocarla. La gioca bene Cristiano Ronaldo, il raddoppio della Juve. Cristiano Ronaldo, è un campione che sta segnando la storia, non solo un'epoca ma l'intera storia del calcio, con quell'altro signore vestito con quella maglietta blaugrana numero 10 argentino, che insomma di Ronaldo è il contraltare e il rivale, chissà, poi magari una volta che si ritireranno saranno anche amici, e alludo chiaramente in modo diretto a Lionel Messi. Ebbene, oggi di CR7 parliamo sfogliando un libro singolare, anche divertente, ricco, e che non è un monumento a Ronaldo ma quasi un'indagine dentro il fenomeno CR7, o un monumento mi viene da intenderlo come quello dedicato nei suoi versetti da Giuseppe Gioacchino Belli alla plebe romana, no? Cioè non un'esaltazione ma una descrizione a tutto tondo in quel senso, sì. Cristiano Ronaldo, storia intima di un mito globale, questo il titolo del volume edito da 16th and the Second. E a proposito di romani, tanto per rimanere in argomento, Romano è il suo autore, che è qui oggi ospite di Olimpia, vice direttore dell'Ultimo Uomo, rivista online di proprietà di Sky Sport, giornalista, scrittore appunto. Benvenuto a Olimpia, Fabrizio Gabrielli. Grazie, grazie per il benvenuto e grazie per l'invito. Allora Fabrizio, innanzitutto è vero che tanto si scrive di Ronaldo, tanto si scrive dei campioni di oggi del calcio, ma dobbiamo dire è una realtà che forse non è evidente a tante delle persone che ci ascoltano. Anche noi giornalisti, che pure in molti casi abbiamo un rapporto privilegiato, no? Con questi campioni, ormai dei grandi campioni del football sappiamo ben poco, no? Nel senso che non c'è più quella contiguità che c'era ancora fino a inizio degli anni 90, quando anche nei ritiri delle squadre capitava di prendere il caffè con Diego Armando Maradona o giù di lì, o giocare a biliardo a Milanello con Van Basten e Gullit, e se non proprio ricavarne delle notizie, quantomeno iniziare a costruire una familiarità. Per questo un libro oggi su Ronaldo richiede anche tanto coraggio intellettuale e professionale, no? Ah sì, in realtà il fatto della lontananza è in qualche modo anche, se vogliamo, uno spunto di incoraggiamento, perché ti permette comunque di cercare di azzerare quel rapporto di annullamento dell'empatia che in realtà la lontananza dal calciatore, nel momento in cui si è trasformato in icona pop, è avvenuto. L'inaccessibilità è sempre, se vogliamo, un grimaldello molto importante attraverso il quale tu cerchi in realtà di prefigurare. La cosa interessante del libro che ho scritto io, per me ovviamente interessante, è il meccanismo che io ho scelto di adottare, che era quello di forse neanche volerci entrare troppo in contatto, perché la lontananza era effettivamente il motore propellente principale, perché volevo indagare l'impatto che lui ha avuto al di là del suo essere, del suo raccontarsi. Quindi di fatto cosa riverbera dal mito pop di Ronaldo su di noi, ma scandagliando questo mito con l'arguzia giornalistica, la capacità di far girare la penna e approfittando anche di questa distanza come di un ulteriore spazio di libertà, chiaramente nella verifica delle notizie, delle fonti, certo, delle storie, però come dire, beh, tu sei così, illumini il mondo del calcio e io ti vedo così, quindi in qualche modo dialogate anche, sì, se a distanza. In realtà dialoghiamo in maniera molto molto intima. L'intimità a cui io alludo nel sottotitolo, storia intima di un mito globale, non è tanto l'intimità del gossip, del piccolo aneddoto che nessuno conosceva, è l'intimità del mio rapporto intimo in quanto io rappresentante di un corpus di persone che lo vedono performare tutti i giorni, e per performare non intendo soltanto in campo, intendo anche con tutti i comportamenti che può avere fuori dal campo. Peraltro l'aspetto veramente interessante secondo me non è tanto ciò che lui tende a narrare, ma la maniera in cui lui si vuole narrare, che fa un po' mismatch a volte con la maniera in cui noi lo vogliamo narrare. Ed è proprio su questo squilibrio di livelli narrativi che si poggia il punto di partenza. Poi ovviamente l'indagine, mi piace molto questo termine che hai utilizzato per raccontarlo, perché non è una biografia il mio libro, non è una geografia, forse sì. È un'indagine davvero, una missione speleologica, io tendo a definirla. È vero, perché è come se lanciassi diverse sonde per esplorare in un altro cortocircuito questo personaggio, perché nell'era in cui la comunicazione intorno a questi miti vuole essere assolutamente controllata, ebbene si creano degli squilibri, no? Insomma, a me viene in mente un Ronaldo che appunto, attentissimo alla sua comunicazione, alla creazione del personaggio, che si basa chiaramente sull'eccellenza calcistica nella propria professione, è sicuramente uno dei primi 10 calciatori della storia, di questo che non credo che ci possa essere dubbio, ebbene che però magari non va al premio FIFA perché non lo vince ed è solo perché è secondo, no? Contravvenendo anche le più elementari regole sia del bon ton ma anche della stessa comunicazione globale, che vorrebbe dimostrare di saper gestire alla perfezione. Sì, no, sono molto d'accordo su questo aspetto. Di fatto in Cristiano Ronaldo è centralissima la ricerca della benevolenza ecumenica. A volte non si rende conto che nella ricerca dell'amabilità globale riesce ad essere detestabile. È vero, la rosicata, per tornare al termine romano. Detta tra romani ci capiamo, ma ormai è termine universale anche quello. Anche fuori dal grande raccordo anulare ormai è stato sdoganato. La rosicata è uno dei motori, è una delle benzine principali con cui si muovono i motori di Cristiano Ronaldo. E il fatto che lui la utilizzi anche come strumento d'affermazione, no? Perché essenzialmente è quello l'obiettivo a cui vuole arrivare, essere riconosciuto come il migliore, e il non esserlo lo porta a porsi in una maniera che sia a volte anche contraria ai canoni più basilari della comunicazione, ma che in realtà riesce ad essere davvero fondante nella percezione di chi poi lo vede. Cristiano Ronaldo è divisivo, cosa che Messi non riesce ad essere. Messi è globalmente accettato perché rappresenta tutto un asset di valori che tendiamo a riconoscere come positivi. Cristiano Ronaldo invece espettora un asset di valori che non sono tutti positivi, ma che sono tutti nostri, perché la rosicata è una cosa che proviamo anche certo, noi. Sì, ma entrambi sono dentro di noi, no? Insomma, sono dei miti che poi però magari devono patteggiare col fisco spagnolo, perché evidentemente qualcosa con una certa leggerezza hanno fatto anche loro. Sono due miti sulle vite private dei quali chiaramente voci si rincorrono, certezze, ma anche invece infondatezze, ma anche sospetti, no? Ricordo una foto di Messi a un matrimonio avvicinata da una bionda, insomma, per dire, è veramente difficile per personaggi di questo tipo tenere sotto controllo tutte le spie che possono accendersi sul quadro della comunicazione globale. Però è un libro anche fatto poi di tanti episodi, no? Tu, lanciando queste sonde, per esempio, che idea ti sei fatto del Ronaldo negli spogliatoi, di cui nessuno poi sa niente, perché poi lo vediamo, anche le migliori firme scrivono delle ricostruzioni appena abbozzate. Che rapporto c'è nella quotidianità con i compagni, ad esempio? Sì, ma è uno da pizza, oppure magari per andare a parlare con Ronaldo un attimo del 4-4-2, pure Sarri deve farsi ricevere dai guardiani, dal portiere della villa del castello a Torino, insomma, com'è questo Ronaldo? A quanto pare non è un tipo da pizza, ma un tipo al massimo da insalatona. Ah, già, è vero, perché poi fa pure la dieta, giustamente, tra l'altro. Diciamo che tutti gli aneddoti che trapelano lo raccontano come una persona massimamente empatica all'interno dello spogliatoio, nel senso un motivatore. In realtà le cose che poi siamo riusciti a vedere anche noi, c'è il video bellissimo dell'intervallo della finale dell'Europeo in cui incide i suoi compagni dopo che è uscito dal campo per l'infortunio, in cui effettivamente è palpabile l'autorevolezza che ha all'interno dello spogliatoio e quell'aura di carisma, insomma, che effonde. Che tipo di rapporto abbia con i compagni è un qualcosa che si è molto evoluto nel corso della sua carriera. Da Manchester, i primi periodi in cui era effettivamente un po' la prima donna, in cui si racconta che abbia voluto far mettere lo specchio davanti al suo posto dello spogliatoio, è diventato poi effettivamente l'inattaccabile, l'inavvicinabile di Madrid, in cui era la persona che era assolutamente più in alto nella scala gerarchica, fino poi ad arrivare a Torino, dove invece sembra che il rapporto si sia molto reso più mite. Sì. Dove si è quasi mitigato. Mitigato, ecco, esatto. In questa distanza. Esatto, dove in qualche modo è diventato, si è trasformato da fratello maggiore che vuole essere la prima donna a quasi una figura paterna per molti compagni. Il rapporto che ha con Dybala, ad esempio, è significativo di questo. E non so quanto lo faccia con malizia il fatto che si sia avvicinato così tanto a Dybala, che invece in Argentina è un po' la contrapposizione di Messi, no? Ah, certo, cioè, poi magari ha detto: beh, ma questo è vero che io gli do tanti d'assist, ma se qualcuno lo dà pure lui, magari ci guadagniamo tutte e due. Insomma, tanti pensieri e contropensieri dei miti globali. Direi che adesso, allora, caro Fabrizio Gabrielli, ci prendiamo una breve pausa, poi continuiamo a sfogliare insieme a te queste splendide pagine di Cristiano Ronaldo, storia intima di un mito globale, edito da 16 and the Second. Olimpia. Va Ronaldo, spiazza Provedel e la Juve pareggia 1-1. Ronaldo, zona tiro. Ronaldo forte! Bellissimo! La Juve trova il vantaggio, raddoppia due volte. Ronaldo. Storia intima di un mito globale, e per mito globale oggi qui a Olimpia parliamo di chi altri se non di Cristiano Ronaldo. E la storia intima è invece quella che ci racconta il nostro ospite Fabrizio Gabrielli, giornalista e autore, in questo libro, appunto, Cristiano Ronaldo, storia intima di un mito globale, edito da 16 and the Second. Caro Fabrizio, ben ritrovato a Olimpia, la città dello sport. Grazie. Allora Fabrizio, stavamo già analizzando tanti aspetti del Ronaldo che sei riuscito a ricostruire e a scoprire. Mi viene da chiederti il rapporto col suo Portogallo, no? Perché lui è diventato CR7 lontano dal suo Portogallo, ma ha fatto grande a sua volta la sua stessa nazione natale. Sì, il rapporto con il Portogallo, soprattutto più che con il Portogallo, con l'isola che gli ha dato i natali. L'isola di Madeira di fatto è tornata sulle mappe mondiali anche grazie a Cristiano Ronaldo. È diventato un po' il grosso catino absidale della cattedrale votata al suo culto, se vogliamo. A partire dall'aeroporto, no? Che se non sbaglio è a lui intitolato. È esattamente così. In Portogallo esistono tre aeroporti che sono intitolati a delle persone. C'è il Delgado di Lisbona, c'è il Sagarneiro di Oporto e c'è il Cristiano Ronaldo di Madeira. Ora, Delgado e Sagarneiro sono stati rispettivamente un eroe della resistenza a Salazar e da una parte, e dall'altra il primo presidente socialdemocratico dopo la dittatura, che è morto in un incidente di cui si dice possa essere stato un attentato terroristico, quindi un eroe e un martire. E in mezzo Cristiano Ronaldo, che in un certo qual modo probabilmente in piccolo racchiude un po' entrambe le sfaccettature. Il suo rapporto è anche molto dibattuto all'interno dell'isola stessa. Io è stato il primo posto che intendevo visitare quando ho scelto di scrivere questo libro, non tanto perché era il punto di partenza, ma perché in qualche modo è anche il punto di convergenza. Sull'isola di Madeira c'è un museo intitolato a Cristiano Ronaldo, che è probabilmente l'unico museo intitolato a un calciatore esclusivamente ancora in attività. A Buenos Aires c'è un museo su Maradona, ma stiamo parlando di Maradona, ed è stato fatto dopo che ha smesso di giocare. In quel museo si racchiudono tutti gli aspetti essenzialmente più storti del mito di Cristiano Ronaldo, che è un mito disposofobico, è un mito che ragiona per accumulazione di dati, di numeri, di vittorie, di trofei, ma anche in qualche maniera di proiezioni sull'immaginario. All'interno di quel museo esistono tantissimi cimeli che sono ex voto, che le persone, i tifosi, i adoranti gli inviano. È un altro cortocircuito questo, perché poi ci caschiamo in questo meccanismo, anche noi giornalisti, perché appena Cristiano Ronaldo batte il millesimo fallo laterale contro la Virtus Civitanova, scatta il paginone, no? È un percorso che s'autoalimenta, ma del quale lui ha segnato di fatto il primo esempio di narrazione calcistica basata solo ed esclusivamente sui numeri. Ha inaugurato una sorta di contabilità del talento, che è un termine che ho utilizzato all'interno del libro, che è una stortura di fatto, perché il talento noi tendiamo ad identificarlo e a conteggiarlo con categorie che trascendono la pragmaticità, la tangibilità. Lui invece ha veramente portato i numeri a un livello romano. romantico, se vogliamo, o ridotto il romanticismo a un livello numerico. Forse è anche sintomo di un'insicurezza, nel senso che c'è bisogno di far vedere a tutti attraverso la statistica che lui è veramente il numero uno, perché qualcuno potrebbe, qualcuno anzi tanti dicono, ma Ronaldo è Ronaldo, però quel piccoletto là quando parte con quella maglia blaugrana al 10, e allora lui ti dice però aspetta, guarda qua che numeri. È un tentativo di spiegazione interessante il fatto che laddove non si arrivi con la percezione, laddove non tutti lo riconoscano come il più forte, lui senta il desiderio di dover apporre dei numeri a surroga di quello che sta cercando di fare. Senti, ma Ronaldo e le donne, un altro capitolo, perché c'è Giorgina, ci sono tante storie, ci sono delle paternità, no? Anche molto discusse, eccetera, eccetera. Quanto in profondità sei riuscito a illuminare questa zona che ha vissuto anche delle propaggini giudiziarie piuttosto recenti? Diciamo che quello del caso di molestia, dell'accusa di molestia sessuale, è stato uno dei capitoli più complicati, sì, è vero, anche probabilmente all'interno del libro uno dei capitoli più giornalistici in senso stretto. A me non interessava molto prendere una posizione e continua a non interessarmi, nel senso, mi sembrava doveroso ricostruirla perché è comunque parte soprattutto dell'ultimo anno ed acquisisce una luce maggiore anche la sua esperienza italiana alla luce del 2018, che è stato l'anno in cui ha patteggiato col fisco e in cui si è in qualche modo conclusa la faccenda giudiziaria, o meglio in qualche modo si è conclusa con una insufficienza di prove e quindi il fatto non sussiste di fatto. Il rapporto con le donne è molto interessante in Cristiano Ronaldo, nella misura in cui invece è più focalizzato sul rapporto con la madre. Sì. E forse quella è proprio l'unica vera donna, con tutto il rispetto di Giorgina e di tutte le qua, ma il faro, no? Non è certo un caso unico, ma è quello, no? No, sono molto d'accordo, tant'è che con i primi tre figli, che sono quelli che lui ha avuto da madre surrogata, e la sorella Katia, una volta in un'intervista ha detto soprattutto di Cristianinho, che è il primo, ha detto: la madre di Cristianinho è nostra madre, che effettivamente è un sovvertimento di tutti gli asset familiari, di tutte le concezioni che possiamo avere. Peraltro una mossa molto coraggiosa quella di Cristiano Ronaldo, costituire una famiglia che esula dai canoni all'interno di culture che sono invece essenzialmente radicate su quel tipo di canonicità. Anche in questo è postmoderno, ma al tempo stesso poi conservatore, no? Perché costruisce questo impianto di famiglia, però poi riporta tutto a un matriarcato molto, molto radicato, insomma. Esatto, no, è molto interessante questa teoria del conservatorismo che fa il giro completo fino a diventare sovvertimento e viceversa. Peraltro in sfida anche a quelli che sono un po' le regole, se vogliamo, del gioco di essere un'icona pop su un mercato globale. Cristiano Ronaldo è un giocatore che è talmente venerato anche in paesi dove le culture di quei paesi hanno un'opinione molto forte nei confronti della maternità surrogata. E nella stortura è che il mito che in qualche modo cerca di gonfiare Cristiano Ronaldo è quello del machismo, di esasperarlo. E lo fa partendo da un contesto familiare che invece è un gineceo, che è l'esatto contrario. Si esalta una figura che è quella del pater, che in realtà all'interno del suo contesto familiare non c'è stata. E forse è proprio l'assenza di questo patriarcato di derivazione che lo spinge a cercare di innescare un patriarcato invece proattivo nei confronti del figlio. Un patriarcato che diventa quasi la volontà di clonare se stesso per proseguire la propria legacy. Capite quanto sia intima questa storia intorno a questo mito globale? Ma senti, ma secondo te fino a quanto rimane con la Juventus? Chiuderà la carriera a Torino oppure cercherà di portare il suo mito da qualche altra parte, su qualche altro oceano? Ma in realtà allontanarsi dall'Europa non mi sembra uno scenario potenzialmente percorribile, anche perché lo ha spesso dichiarato che non vuole mettersi alla prova in contesti che non siano performanti come possono essere i campionati europei. Ci sta che possa completare la sua carriera a Torino, ci sta che possa completarla presto, se presto vincerà. Di certo cercherà di completarla con una vittoria, anche perché potrebbe continuare all'infinito laddove non succedesse. L'unica situazione che potrebbe portarlo lontano da Torino, secondo me, è la tentazione di unirsi con Messi. E questa potrebbe essere, che spettacolo, sarebbe, sarebbe veramente pazzesca, se vogliamo. Anche se Messi lo seguisse a Torino, sarebbe bello, no? Non per i tifosi delle altre squadre, certo, probabilmente. I tifosi juventini, insomma, diciamo che l'abbonamento lo faresti. Ci sarebbe la fila, penso, di chilometri, no? Beh, sarebbe, hai detto una cosa grossa, eh? Dopo, forse pure qualche linea di febbre, perché immaginarli lì insieme, quei due, beh, tanta roba, tanta roba. Invece, ecco, quello che ti chiedo, anche se adesso sarà difficile togliermi dalla testa questa suggestione, come lo vedi invece fra 10-15 anni? È immaginabile un Ronaldo, come necessariamente sarà, lontano dal campo di gioco, e se sì, in che ruolo? Secondo me è immaginabile lontano dal campo di gioco, meno immaginabile lontano dai riflettori. Lui in un'intervista recentemente ha detto che quando smetterà di giocare vorrà studiare per poi fare l'attore a Hollywood. Il fatto che non riesca a stare lontano troppo dall'attenzione, insomma, è abbastanza evidente. L'abbiamo visto anche nel 2018, è andato fuori dai mondiali, dopo 4 giorni ha annunciato il trasferimento alla Juventus. A Torino è arrivato nel momento in cui si stava giocando la finale della Coppa del Mondo, il giorno in cui è uscito con il Portogallo dai mondiali 2010 in Sudafrica, il giorno dopo ha annunciato la nascita del figlio. Quindi, insomma, che conosca le tempistiche per essere sempre sull'onda, non deve di certo insegnarla a nessuno. Sono certo che non lo vedremo giocare le partite da testimonial a 10 anni dal ritiro con la pancetta, perché sarà probabilmente sempre perfetto e vorrà sempre vincere anche là. Sì, sì, è quello, sì, ce l'hanno insegnato tanti campioni. Intanto Ronaldo dovrà studiare per la sua nuova carriera. Io vi consiglio veramente di studiarvi quasi, no? Col piacere della lettura, ma anche con l'attenzione dell'occhio critico, questa storia intima di un mito globale, Cristiano Ronaldo, edito da Sixteenth and the Second e scritto da Fabrizio Gabrielli, che ringrazio, caro Fabrizio, per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi, grazie Dario per la bella chiacchierata. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.